28 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 28 dicembre. Il mio braccio è molto peggiorato a causa dello sforzo fatto ieri per salire nella rete del compartimento. Il collalto mi ha portato stamani da quel suo amico che fa le cure elettriche e che si chiama il professor Perussi, il quale, dopo avermi visitato, mi ha detto «Ci vorrà una decina di giorni e anche più». «Meglio», ho detto io. «Ok, hai piacere a star male?» ha esclamato il professore sorpreso. «No, ma mi piace tanto di stare a Roma, e poi a far la cura elettrica con tutte quelle macchine deve essere molto divertente». Il professor Perussi ha incominciato subito a farmi il massaggio elettrico, applicandomi la corrente con una macchina molto complicata che mi faceva come un gran formicolio in tutto il braccio, mentre io ridevo a più non posso. «Questa, ho detto, è la macchina per fare il solletico. Ci vorrebbe per il signor Tirinnanzi, che dopo l'affare del segnale d'allarme è diventato così serio». «Vergognati», ha detto il collalto, ma l'ha detto ridendo. Mia sorella Luisa mi ha fatto grandi raccomandazioni di star buono e quieto in questi giorni che rimarrò presso di lei, perché prima di tutto la sora Matilde, che è sua cognata, ossia la sorella di Collalto, è una ragazza invecchiata ed è molto ordinata nelle sue cose e anche un po' meticolosa, e poi perché il dottor Collalto è specialista per le malattie del naso, della gola e degli orecchi, come è scritto nel cartellino sull'uscio di casa, e dà le consultazioni tutti i giorni, motivo per cui non bisogna far rumore a causa dei clienti che vengono a farsi visitare. Del resto, ha detto, tu anderai molto fuori a veder Roma e ti accompagnerà il cavalier Metello, che la conosce sasso per sasso. Fine del 28 dicembre.